sempre sorridente. Tutti sono matti, nulla che ti butti giù. Resto dentro a questo ballo come un pesce sempre a mollo. Tutto questo non mi sembra vero. Sono un re, sto sognando ma sono sveglio. Mi vedessi qua sto meglio. Te l'ho detto, non ritorno a casa e c'è un perché. Qui c'è tanta gente oggi più di ieri, sempre sorridente anche tu. Tutti sono matti, oggi amiamo tutti, nulla che ti butti giù. Posso fare ciò che voglio, nessun peso come il sogno. Sono certo che ci riusciresti anche tu. Sto lasciando andare il tempo, cellulare sempre spento, niente auto, niente traffico, ma che TV. Guarda quanta gente oggi più di ieri, sempre sorridente anche tu. Tutti sono matti, oggi abbiamo tutti, nulla che ti butti giù. Non ho smesso di ballare, vinneggiando come in mare. Salterò come un delfino in cielo e poi nel blu. Guarda quanta gente oggi più di ieri, sempre sorridente anche tu. Tutti sono matti, oggi amiamo tutti, nulla che ti butti giù. Guarda quanta gente oggi più di ieri, sempre sorridente anche tu. Sono matti, oggi amiamo tutti, nulla che ti butti giù, nulla che ti butti giù, nulla che ti butti giù, nulla che ti butti giù, nulla che ti butti giù, nulla che ti butti giù. Oggi sono felice, star così mi piace, nuovo.